supposing the people inside were dead, all stretched out with the lights quietly burning about them. I'm sure it would be very amusing. Perché viene? Non c'è nessun perché. Come lo si vede? Bene, questa domanda merita una risposta. Come posso essere nato da una famiglia, come dire, così convenzionale e diventare un leader ribelle, un oppositore del mondo conformista destinato a trovare la felicità solo in tutto quello che non si può spiegare? Vi ho portate qui per una ragione precisa, ma purtroppo voi e la vostra mente sentimentale mi state creando dei problemi! Il mio cervello è congelato, sprangato! Mi devo assolutamente liberare dalla cultura imperante delle riproduzioni meccaniche di massa! E intanto la spessa incrostazione continua a morire sulla superficie! Oh, Cristo! Fanculo! Rispetto per nessuno, nessuno, mai! Rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, nessuno di voi! Fini di rette oscure, tacito pure no, per vivere di sopra, devi stare comuni, per non chiudere la porta ai topi di compari, descrivi gli elementi a semplici volari. Rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, nessuno, mai. Rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, nessuno di voi. Avere fatti gli occhi di fronte più canzoni, pregare dei corrotti per non essere da meno. Considero che sia il potente scorretto non tendere la mano a chi non è con noi. Rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, nessuno, mai. Rispetto per nessuno, nessuno di voi. Rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, nessuno mai. Rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, nessuno di voi. Nessuno, mai! Rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, nessuno di voi! Rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, nessuno mai! Rispetto per nessuno, rispetto per nessuno, rispetto per nessuno.